come deviazione, io gioco che ho allineato tutto lo stadio di ricezione, ho trovato, ho dato la potenza, non andavo in trasmissione per un interruttore, poi alla fine altro interruttore, quindi voglio dire alla fine. Adesso vorrei fare una prova in banda laterale, vediamo se c'è in banda laterale, poi mi ricontrollo l'FM. Guarda, se vuoi accendo l'altro apparecchio, che è più affidabile, e così controllo anche su quello. Fai così, mandi l'altro che ci facciamo un passaggio in USB e vediamo almeno se più o meno è che deve essere, però almeno che stia andando, dai. Sì, un attimino che lo accendo. Oh, eccoci qua, ci siamo riusciti. Fabri, mi senti? Sì, anche se sono col dipolo, ma forse è meglio. Sì, perfetto, non ho nessun problema ad ascoltarti, Gianfra. Ok, parla ancora? Allora, guarda un po', così ce ne andiamo in USB. Allora, come in sonda dovrebbe essere in sonda, perché ho controllato il oscillatore locale ed è perfetto, 36.000, quindi non dovremmo avere problemi da quell'atto lì. Sì, ok. Quando parli, non so se perché c'è la radio accesa, ma sento altre voci sotto, ma presumo che sia rumore ambientale, quello dai. Sì, rumore ambientale, c'è il microfono sotto, c'ho tutte le VHF accese, non è quello. Dai, passiamo in USB. Ok, USB. Sì. Ecco qua, adesso siamo in AM, dovrei essere abbastanza buono anche come Mickey Gain, se non troppo alto. Sì, io ti ascolto bene anche qua, perfetto. Sì, sì Fabrizio, va bene, per me ovviamente è ancora un po' troppo alta perché questo è apparato da banda stretta, è molto molto molto molto tirato. Sì, va bene, adesso in FM sicuramente possiamo fare una prova che non va bene perché e qui però mi sa tanto che dovrò sferruzzarci un pochettino con l'oscilloscopio, mi sembra, devo vedere come va la taratura. Dai, vedi un attimino, facciamo in FM, facciamo un'altra prova anche se abbiamo visto che non va. Aspetta che c'è Marco, l'ho sentito ora, aspetta. Sì Marco, il segnale è buono, ma che c'aveva la radio bassa e quindi non ti ascoltavo perché era un ping pong veloce tra me e Gianfranco e mi sfugge il nome, va a Napoli e vai, dai. Adesso ti sento Marco, no, stiamo facendo delle prove perché sto rimettendo a posto un 440, poi ti spiegherò. Sì, no, adesso era un apparecchio che era sordo, non andava importante, poi non dava potenza e poi bisognava solo mettere, aveva solo problemi che non accendeva l'interruttore, meno male che era solo quello. Adesso dovrei avere dei problemi con la deviazione in FM perché mi sembra che non sta andando, adesso facciamo la prova così poi ci metto mano e vediamo, però io più di tanto basta, non ce la faccio più. Se mette a posto quello credo che più o meno la radio stia andando. Radio vecchie, fili che si spezzano, falsi contatti, no, non è possibile più, sono troppo vecchie queste radio. Hello, Gianfra, proviamo in FM, vediamo, dai. Mi devi... Ciao Marco, comunque... Buonasera, mi devi dare qualche minuto perché questo ovviamente ad FM non ce l'ha, se non ha parlato navale. Ripasso sull'altro. Va bene, dai Marco, passa tu in FM, fai il favore, sì, vabbè, tanto così io poi faccio, così poi ci sentiamo. Marco, tanto in FM sicuramente mi ascolti male. Vieni, proviamo? Io se vuoi provo. Vai. Buonasera. Sì, CQDX, CQDX. Ebbè Fabri. Oh, ebbè, Lucaria, niente, stiamo provando, aspetta, posso anche sollevare un po', mi sa, aspetta. Ecco qua. Ecco, no, così forse è troppo, perché vedo la Lancia sei un po'. 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, ecco qua, sembra che vada bene. Una bomba, perfetta, bella amplificata, giusto. Vabbè, anche questo caso risolto. Stavo finendo la radio di coso di Gio Maria, no? Non di Gio Maria, di Giulio. Una bomba Fabri, perfetta, bella, forte, chiara. E mi stavo ascoltando prima, dai. Questo è il radio vecchio, ogni tanto bisogna mettergli mano, infatti alla fine si sa mettere le mani oppure non conviene acquistarle, perché tanto possono andare bene, ma prima o poi qualcosa la danno, bisogna mettere mano. Se la devi mandare e fare non ne vale la pena, o te la fai e allora no, il costo è zero praticamente, però se la mandi a fare è meglio che lasci perdere, perché tra trasporto e tutto, solo il trasporto, è vero, vabbè, se la sa fare o che ci sta, è così. Però ho notato che in FM non ti sentivo bene. Lo so, ma non è un problema di radio, lo sai, perché anche me l'ha detto anche Gianfranco, però Marco mi sentiva perfettamente col Pro 2 e mi sentiva anche, mi sfugge il nome dell'altro amico, mi sentiva perfettamente in FM. Quindi secondo me, quindi alla fine non la tocco. Ah vabbè, in AM è perfetta, in banda mi stavo ascoltando, però vabbè, io c'ho il baracchino spostato un po', e dopo 2 ore centrandomi, ma non riuscivo a centrarvi bene, ne centravo uno, l'altro l'ha spostato. E i baracchini sono così, no? Non puoi pretendere, infatti è entrato sia Gianfranco con un paio di HF, abbiamo fatto le prove, sia come si chiama Marco, su un altro amico mi deve dare il nome che io mi sfugge adesso, avanti, vediamo se c'è ancora. Sono qua, Natali non sono, dai. Sì, non tu Natali, un altro è entrato poco fa che in banda laterale, che stavano facendo delle prove e mi ha chiesto che c'ha il 450 lui, ma mi sfugge il nome. Tino deve essere. No, non è Tino. Francesco. Bravo, Francesco, sì, Francesco. Ebbene, ci sei riuscito a smontare l'ultimo pezzo di quell'antenna, no? No Fabri, no, mi domani viene Franco, mi dà una mano, domani mattina appena finisco con mia madre, che rientro la devo portare dalla parrucchiera, appena rientro, si avvicina a Franco, mi ha detto che forse riesce, dice che lui l'ha levato così con uno scalpellino e un martello, dove ci sono quelle, hai visto quelle, come vengono chiamate, quelle... Quei due cosi, dai, in alluminio che vanno in casso. Sì, quei cuni, le cuglie dovrebbero essere. Fagli, mettigli un po' di cerecci stanotte, lasciala a bagno, lasciala, che male non gli fa. Sì, stanotte a buio. No, ce l'ho fuori l'antenna, Fabri. Domani mattina tanto mi alzo presto, come verso le 7:30 glielo spruzzo un po'. Eia, va bene, esci che finisco di mettere gli ultimi inviti. Eia, fai Fabri. Attimo, adesso vado a cenare tra un po'. Fabrizio, mi senti? Sì, perfettamente. Sì, perché poco fa mi sono accorto che c'era inserito il coso per la trasmissione digitale e mi rimaneva aperto in trasmissione. Un attimo ho pensato, va, anche l'apparecchio è partito, invece non era così. Un errore tecnico. Allora ti volevo dire, in FM comunque io ti sentivo male, mentre Marco diceva che ti sentiva bene, io ti sentivo male, non so perché, però è così. Ti capivo, sì, però eri troppo largo sul coso di spettro, eri una nave. Sì, però siccome in due hanno sentito bene, no, perfetto, ti sentiamo, tu non mi hai sentito bene. Alla fine, sei una picco, siccome questa radio in FM non si usa, non mi metto a... perché sembra così, ma devo entrare su un paio di schede, devo tirare giù i coperchi, alla fine, sei una picco. Che va bene così, amici, va bene così, se due mi sentono bene, gli altri hai ragione tu sicuramente, ma va bene così, o no, cosa ne dici? Sono perfettamente d'accordo, perché tanto un apparecchio è basato qua e quindi non... No, no, più di tanto, a quell'età, quella prata è vecchio ormai, che è il cucco, chiedere la luna, capito? Anche perché a voi dicevo fare, mi sono, poi quando inizio una cosa diventa una testardaggine farla andare, la volevo e allora la fai, però basta, cioè non ha giù più gana, non ne ho voglia, andiamo, perché poi sembra così, devi riguardarti tutto quanto e sta andando, diciamo che sta andando, va bene, dai, ho visto che manda laterale, va bene in FM mi ha dato dei buoni risultati, tu giustamente mi dici così, sicuramente così, però più o meno va bene, pace. Assolutamente sì, è un po' la stessa situazione che ho io, che sono un mese oramai che non riesco a tirare giù un'antenna, perché o c'è vento, o c'è tempesta, o piove, o gelo, o tante cose, oramai non si riesce più a fare niente. Adesso il prossimo tentativo io lo faccio domani. Mi auguro che non mi leggete sul giornale, speriamo di no. No, e ci chiamo a vedere se entra Giulia a provarla, va. E così poi la spengo. Che ore sono? È tutta la sera, ci ho perso. Va bene, aspetta che chiamiamo Giulia. Francesco, ci sei ancora qua? Attenzione K. Ora, ora. Attenzione 10 K. Avanti. Avanti, chi è sul 10? Scusa Anto. Come mi sono seduto, ho pigiato il mic con le chiappe. Stavo ascoltando, stavo mettendo la mano al ricevitore, dai. E cosa vuoi, un mic sotto al guru? Ehi, ce l'ho a fianco qui al, come si chiama, al divano, vicino al bracciolo, dai, ogni tanto mi capita di sedermi sopra. Cappa, cappa, ti aggrida che oggi mi viene la papa l'antenna e sa il suo vento buzzinoso. Mamma, mi aveva detto che c'era freddo e vento, ma quando? Stamattina? Perché io stasera sono uscito anche a piedi, ma io vento e freddo non ho sentito, anzi abbiamo caldo a piedi. No, a domani si può fare antenne. Ma di mattina? Eia. Vabbè, di mattina ero tappato qua a casa, non mi sono accorto di niente. Mamma ha detto, ehi, c'è un freddo. Poi esco stasera alle 6, tu metto nel gaglio a piedi, ciu. No, no, c'era proprio freddo stamattina, stava tirando vento parecchio. Scappa. Qua era silenziato, cioè era muto. Non state più entrando la notte? Con Luca, così a chiacchierare. Ehi, avanti! Ciao Lu, ma stasera hai detto una cosa, ma ti è successo qualcosa all'antenna o stasera o ieri l'avevo sentito? Ti sei rotto l'antenna? Ciao Marco, sì, è a terra adesso, non ne ho l'antenna a casa. Sono ancora qua, sto cenando, poi vado a casa. Purtroppo è rotta. E ho comprato tutto quanto, ho preso tutte le fascette nuove, vocalizzante, secondo me devo riuscire a staccare l'altro pezzo e poi caricarla in macchina, che la dobbiamo controllare, capito? Vabbè, proseguite, io vado a continuare a mangiare. Cappa, te l'avevo detto Lu di farlo, te l'avevo consigliato e tu non la carazza così. Lo so Antu, vabbè, lo pensavo di, capito? Infatti anche il Paolo l'ho tagliato con l'arrugginito. Ma cosa fa poi lì? Ne metto gli rivetti e metto un altro pezzo buono? ne mette il pezzo nuovo. Non lo so, Antu, non te lo so dire. Non lo so. È l'unica cosa da fare così, se ne avessi rimetti nelle sfile. Boh, farà così, non lo so. Finire una balla. Si vedrà, dai. Si prende. Ehi, HK, dai. Oh, io già l'avrei fatto quel lavoro lì. Ce ne sarà della mia. Ehi, Lu, dai, buona mangiata. Non sembra, ma ne fa danno il vento in questo periodo. Io qua non me ne accorgo certe volte. Perché sai cos'è? Sono in basso, sono al piano stradale, quindi anche se tira vento qua non me ne accorgo. Se vai sul terrazzo già te ne accorgi, a voglia. Ma sul tetto c'era Badendi, l'altro in Nardoglia. Era Badendi, ballando, sì, sicuramente sì. Però sai, è sottile, bene o male, riesce a... Aspetta che levo il bip. Cappa, pure la mia non è grossa. Eppure è resto bene, vedi? Uno è uno stazionare, ma così muove. E va bene. Veglia. 4 watt di apparato, 3 di uscita sicuramente. Va buono, dai. Infatti mi stavo chiedendo un attimo fa, ho detto, ma non state parlando più la sera? Se no mi tocca guardare la TV, non posso ascoltare niente, almeno con il ricevitore in camera mi ascolto il QSO. Ah, di chi si sento? Orecchione. Scappa. Comunque anche la seconda penna è piccola, però le cose, magari ci stai ascoltando in un canale, e poi metti un altro canale già va bene. Sì, per ascoltare un altro canale sì. Magari in trasmissione hai visto quanto in distanza più vai distante più attenua, cioè strano come effetto però. Cioè qua solo da 9.20 scendevi a 9.10, invece da Sparviero scendevi addirittura a 5. E d'altronde un'antenna da un metro è super caricata, cioè non si può pretendere di più. Vedi, magari la mini Grand Plain ancora, oddio, non assai, me, di stilo sarà un metro e venti, 1.10, 1.20, anche quelle sono caricate. Eia. Ma poi ce l'avevi già tu la bazooka, no? La Storm. Il viaggio, un bel danno, il viaggio. Sì. Io l'ho presa anni fa lo stesso, sì, stazionaria nulla, però mettendo la bassa è terrificante, non serve a niente. Poi credo di aver perso anche una staffa, lo stesso della Boomerang, ho perso una staffa o mezza staffa, o componenti della staffa, è tutto un casino. E poi vai a cercarli e non li trovi uguali. Cioè devi trovare roba da adattare, a me mi rompe le palle. Ah, la staffa ce l'ha Fusaro, ce l'ha della Lem, ce l'ha lui queste cose. Ma comunque quella lì è un'antenna proprio così, giusto per fare, se vuoi fare ascoltomi, ma non è niente di, non è niente di più. Quando avrò i soldi mi prendo la Venom, o mi prendo la seconda, l'ultima riuscita della Ringo, e quella già va bene. Sì, la Venom l'avrei voluta provare, soprattutto quella 5 ottavi, quella con i 3 radialini. Avrei voluto provare a vedere se è molto più sottile come materiali, come rende, che larghezza di banda c'ha. Solo che quando mi sono deciso, o quasi deciso, da eBay era sparita, le avevano terminate. Poi sono ritornate, mi pare, però con prezzi più alti, molto più alti. Ho detto, mi dispiace, finché si trattava di pagare, quant'era, 39 euro tipo, o giù di lì. Se ne poteva parlare, ma adesso sono salite di prezzo, almeno l'ultima volta che ho guardato erano salite, e allora lì non conviene più, lì tanto vale andare di prenderlo uguale a questa, o la Sirio che è uguale a questa, la Sirio GPE è come questa, uguale, c'ha in più le manicotti che proteggono dove metti tra un elemento e l'altro, mi fanno un po' da isolanti e gli danno anche robustezza meccanica, capito? No, ma comunque già, No, è buona come antenna. Cioè, adesso 60 euro l'hanno messa. Quanti, più o meno quanto costa la Ringo nuova? Ehi, poi c'è anche a mezz'onda, vabbè, comunque per il prezzo si poteva provare. Poi io ho un terrazzo a disposizione, non in questo palazzo, è nel palazzo più giù, quello è nostro. Potevo, mi viene bene a piazzarla, capito, non rischi di cadere, puoi fare tutte le prove che vuoi, non c'hai limiti, è roba mia, quindi posso fare tutte le prove che voglio, però poi ho lasciato stare. Ah, è capo. Dove c'è l'antenna piazzata al terzo terrazzo? Come, Antonio? Dove c'è l'antenna piazzata è il tuo terrazzo? No, questa è proprio, appartiene il terrazzo a un condomino, l'ha proprio comprato, e anche l'altra parte, perché praticamente il terrazzo del palazzo è diviso in due, ed è di due condomini diversi, cioè proprio di proprietà, devo chiedere la chiave per salire, però problemi non ce n'erano, non ce ne sono mai stati per cambiare le antenne, capito? No, l'altro ce l'ho in Viale Mameli, quel terrazzo di proprietà in Viale Mameli, dove avevamo la casa di nonno, purtroppo, anche lì abbiamo dovuto vendere, peccato. Ah, cappa, ho capito. Oh, ioia, non passa più la serata. Ah, comunque già, se te lo fanno fare, se sono tranquilli questi condomini, già va bene. No, al limite, una volta mi aveva detto qualcosa, aspetta, cosa c'ha questa cosa? Ecco, l'ho trovato, stavo andando oltre. No, un po' del cavo, dice che non c'era servitù di passaggio, invece in realtà c'era servitù, Invece il palo è sul gabbiotto che è condominiale, c'è il gabbiotto al centro e il condominiale. Poi però dopo è tranquillo, non ha più detto niente, così. E quindi cosa voleva fare sul cavo, che non ho capito bene? Nulla, niente, aveva fatto osservazione che non c'era servitù di passaggio, invece c'era servitù di passaggio, come? E poi nell'angolino, cioè proprio nell'angolino aderente al muretto, cosa? Cioè, cosa? Non è a mezz'aria in mezzo alle balle, no? Allora qua sta dicendo. E guarda che tanti anni fa avevo fatto di peggio, nel 92, quando c'era il vecchio proprietario del terrazzo. Siccome il cavo era corto, cioè ne avevo messo un bene, ma era comunque corto, l'avevo messo a mezz'aria, all'altezza di muretto, di parapetto. E vedi che questo filo praticamente all'altezza di un metro, quant'è il parapetto? Non so se è 1,20 o quant'è. E lì era troppo sporca, vabbè. Cappa. Ma che cosa rifatti? A punirlo là, cioè, non dà fastidio sul tetto. Vabbè, poi tante antenne sono verticali, cioè in gomma laterale non ne hanno. Anche se è radiali, però l'antenna è a 4 metri e mezzo dal pavimento del terrazzo. E quindi un problema non c'è, a meno che uno debba giocare a pallavolo in terrazzo, ma nemmeno. Sono corti poi quel radiale, non sono lunghi. Corti no, 1,30 m. Se sono tre radiali, 1,30 m orizzontali. Aspetta. Ma rispetto alla mantova che sono più lunghi, a Superlem c'è già un bel lungo radiale. Quanto sarà? Non credo che siano un quarto d'onda, saranno sempre quel metro e mezzo, dai, così, giù di lì. Poi ci sono antenne nuove, tipo la Grazioli, vai 2,75 m di radiale, un quarto d'onda, effettivo. Quello è già spaventoso, soprattutto se ci sono cornacchia che si poggiano e te lo piegano, te lo spezzano. Domani. Sono belle robuste quelle antenne. La Superman mi sbaglio quasi 2 metri. Boh, non mi ricordo. Poi qualche antenna ce l'aveva caricati, comunque parzialmente caricati forse. Mission alluminio nudo, cioè non nudo e crudo, cioè non è roba caricata in vetroresina, capito? 1,30 m. Cappa, non capisco perché molti ce ne hanno questi in vetroresina. Magari li fanno caricati, dicono che abbiano durata maggiore, solo che dopo vari anni, cioè se si erano spezzati spezzano anche quelli, mica con cornacchi e coso eccetera. Poi quando li vuoi a togliere dopo anni, hai visto quella la fibra di vetro cosa, tipo aghi di fico d'India, ti entrano nelle dita. Non ti preoccupare che già lo so, già lo so, gli ho presi quei guanti io. Sì, poi sono volatili anche quella roba lì, se no spina in fico d'India, per carità. Vabbè. Ok, Anto, io adesso mi accendo la TV, vediamo. Tanto mi sa che stasera non si esce, quindi vediamo. Cappa. Io, a chi la notte esce tu? Sì, ogni tanto. E se no è una palla, solo TV, eccetera. Io perciò sto entrando anche meno. Poi da quando c'ho la moto sto uscendo di più, quando posso, mattina o pomeriggio o sera, insomma. Esco più volentieri, in macchina è un casino, in macchina non trovi parcheggio, rischi multa, eccetera, non lo trovi balle. E poi io lo scooter io lo uso tutto l'anno, non sono di quelli che lo usa d'estate e poi lo lascia fermo 9 mesi o 6 mesi nel coso. Tutto l'anno lo uso, freddo o non freddo. Se c'è freddo mi vesto. Cioè mi metto roba adeguata al freddo. Cappa. Non t'aggio mai visto, forse ti conosco ma tu non. Ma tu non sai chi sono io, io non so chi sei tu. Non è un bel vedere, Non è un bel vedere a conoscermi. Guarda, tu quando vedi uno più o meno alto, panzigobbo, quello sono io. Non è una faula, panzigobbo. Sembra una S, capito? Addirittura. Infatti c'ho una pancia che sembra incinta di 6 mesi. Ho detto qua la curva del benessere però sta cominciando a preoccuparmi. Sono troppo gonfio di, non tanto proprio pancia, è più stomaco, più stomaco proprio. È una cosa allucinante. Ma pure tu però non ti muovi per essere così. No, Anto, io purtroppo mi muovo poco, cammino poco, non ho fatto sport. Quello è un difetto grave. E poi, non sono bevitore, tipo, non è pancia da bevitore, quella è pancia da dolci, è magnozia, capito? Lo so, troppo sedentario sei. Invece non ti dovresti muovere. Il danno è fatto ormai. Il danno è fatto, almeno per la colonna vertebrale il danno è fatto. E quindi, pazienza, tiriamo a campare. Luca, sei rientrato? Ancora sei entrato nella moto, mamma mia, dico periodo. Ma per il freddo dici? Sì. No, ma tanto c'è il parabrezza quella, cioè senza il parabrezza avresti molto molto freddo, più freddo per dire. Però col parabrezza, guarda che scherma molto, ti aiuta molto molto molto. E poi è piccolino, mi sembra un cinquantino sembra. E che moto è? Viaggio Liberty. Va troppo bene, va, sono motori, se li tiri bene sono indistruttibili. Sì, è un CO2, perché quella nasce una moto a parità di cilindrata con l'SH 125, con lo Scarabeo 125, è un CO2, però tanto a me di correre non me ne frega niente, a me serve proprio per città, esclusivamente per città, dentro la città. Cappa. Ma guarda, vanno troppo bene con la moto, è anche molto durativo quei motori sono. C'è un mio amico che ha fatto un bel di chilometri e ancora è andenne. Sì, sì, come motori sono abbastanza affidabili, motore Piaggio, insomma. Quello è particolarmente lento, cioè non è spinto come 125 quattro tempi, no? L'SH50 tira di più. Lo Scarabeo mi pare tira di più lo stesso. E vabbè, a me interessano i consumi, a me interessa che faccia tanti chilometri con un litro, ma non mi interessa della velocità. È quattro tempi il tuo. Eia. Quanti anni è stato fermo? Colpa mia. È rimasto un bel di anni fermo me. Cioè, vabbè, quando ci penso, vabbè, adesso già funziona. Al limite bisognerebbe fargli la trasmissione. La cinghia e i rulli un po' mi sembrano un po' abbastanza mosci, però mi piaceva molto lo Jeep. È ancora più piccolino lo Jeep, però ha le ruote piccole e non mi sono fidato. Tiene meno la strada, come dire, boh, preferito a ruote grandi. Ah vabbè, ci rendo la più grande. E poi lo Jeep, sai cos'è? Le ginocchia, io l'ho provato, era un po' piccolino, le ginocchia mi toccavano con lo scudo, o come giravo il manubrio, cioè ci stavo un po' stretto sullo Jeep, capito? Cioè ti dovevi sedere in un certo modo, non... va bene. Ma è 50 lo Jeep? Sì, mi pare che sia solo 50, due tempi, ma mi sarei accontentato, tanto ormai c'è un miscelatore automatico, non è che devi farti la miscela. Invece col super ciclone, ti ricordi il ciclone? Non avevo miscelatore, cioè mi dovevo pigliare l'olio, Castrol, col misurino mi dovevo misurare il 2%, mi dovevo fare la miscela in garage, era una rottura di balle. Allora erano così le moto. Ma sai perché? Io al distributore miscela non ne chiedevo, non mi fidavo assolutamente, perché il distributore magari non c'aveva olio, tu grippavi e poi lui ti diceva, non è un problema, cioè il distributore non ammetterà mai il coso, se non ti dava olio e ti dava solo benzina, allora non era futtinuta. Da poi Bedozzo che trattavano, ha grippato una volta a babbo, non ha più posto, Bedozzo che usavano. Di chi sono proprio terra. E se ne mettevano pure me. Io usavo il Castrol, costava anche un bel, Castrol TTX, adesso non me lo ricordo più, era proprio per i due tempi del ciclone. Poi io me la facevo un po' grassa, me la facevo al 2,5%, proprio per evitare, non sia mai che ci sia un po' un surriscaldamento, che ne so. Al 2,5% precisa me la facevo. Il TTS? Sì, forse era il TTS, sono passati troppi anni, Anto. Castrol, costava un bel mio al litro, un bel, però sai, ti durava, non voglia farne di chilometri. Aspetta il telefono. Alto, devo chiudere in fretta, devo fare una commissione. Dai, riprendete con Luca, se c'è ancora. Ciao, buona serata a tutti, ci sentiamo. Ciao, no, Luca va andare a casa sua che non è apparecchio, ok, ciao. Capace che faccia una prova dopo me, se ci sei ancora. Se non sento nessuno, chiudo. Eia, vabbè, vediamo, dai. Ok, ciao Antonio, ciao Luca, ciao gli ascoltoni, ciao a tutti, ciao. Ciao. Antonio, mi copi? Antonio Bombolo, mi copi? Break canale 10 per un controllo, cambio. Break per un controllo, canale 10, cambio. Break canale 10 per un controllo, cambio. Chi è avanti? Ciao Tino, Marco Baramobile. Era per capire se questa antenna stava trasmettendo. L'antenna della Mutua, buonasera. Buonasera, chi sei, Marco? Tino, sei tu? Sì, buonasera, ciao. Un'antenna della Mutua, dai, siamo praticamente dagli antipodi rispetto a dove sei tu, Baramobile. Ti sento basso, dove sei? Non proprio via Milano, dai, via Budapest, una cosa del genere. Non riesco a tirarti fuori, dove hai detto che sei? via Budapest. Marco, prova a parlare. Testo 93, via Budapest, movimento, cambio. Ah, K, dai, via Budapest, sì, adesso ti ho capito. E io ti stavamo provando un'installazione temporanea in macchina, però con le antenne corte c'è una cosa drammatica, dai, non, più di tanto non si riesce a fare. Poi questo c'ha 3 watt, 3 watt. Tutto della mutua, parecchio della mutua e antenino della mutua. Va bene, dai, vabbè, non possiamo pretendere. Santiago 7 comunque, Santiago 7, radio 3-4. A volte è incomprensibile, però se riesci a trovare il varco, riesci a passarlo, io riesco ad ascoltarti. Ehi Attino, avevo sentito anche Bombolo poc'anzi di sfuggita che ha fischiato, però probabilmente non mi copiava, non mi copiava. E va bene, dai, grazie al controllo T. Di sera non credo che stia più entrando nessuno al momento. Ehi, vabbè, dai, io ho finito ora di fare carica, quindi mi sono seduto un attimino per guardare le ultime cose al PC e ho schiacciato la portante per vedere se c'era qualcuno. Va bene, dai, ma ti saluto. Buona serata, tante cose belle, dai, io riesco un attimino a farmi 5 minuti qua e poi rimango in quel rito. Ciao Patino, buon proseguimento di serata, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Ciao ciao, già va bene comunque, la radio vorrebbe un po' più amplificata, ma in realtà è da spingere qualcosina in più, però come mi hai detto, radio della mutua, quindi accettiamo quello che c'è. Sì, sì, è omologatissimo, guarda, più omologato di questo non ne trovi, ok, ciao a te, ciao. Va bene, ciao ciao, buona serata.